In ascensore. That's a beautiful hotel. Yes, è molto bello. E molto antico, del XIII secolo. 13th century. Oh, well, hope the bathroom's a bit more modern. I love the English sense of humor, especially in a beautiful woman. No, il bagno non è antico, è modernissimo. Buonasera. Buonasera. Scusi, siamo al terzo? Al terzo? Sì, è il terzo piano. Siamo al terzo. It is your floor. Andiamo? Oh, right. Grazie, buonasera. Di niente, buonasera.